vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 10 luglio il sole in regione è sorto alle 5.44 e tramonterà alle 20.47. Mercoledì c'è luna piena e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Lillo Montalto Monella. Ultimo approfondimento per il settore del biologico, oggi in apertura di puntata con la realtà della zootecnia che ha ancora ampi margini di miglioramento e soprattutto di espansione. A seguire la storia del professor Angelo Floramo, oggi incentrata sullo Sway, zona caratteristica dei vecchi paesi agricoli a metà strada tra stagno e laghetto e funzionalissimo per l'abita della comunità. Torna purtroppo d'attualità la flavescenza dorata della vite, un flagello per le vigne. Cosa si deve sapere e come comportarsi nella rubrica delle normative. Per chiudere la rassegna delle piante da frutto, oggi abbiamo una scheda sulla Melanchier, pianta che resiste anche in quota e ci regala piccole ma versatilissime bacche. Parlando ancora di api e il loro rapporto con l'agricoltura, vedremo come quest'ultima può mettersi al servizio di questi insetti, traendone guadagni, non solo in fatto di produzione di miele. Per lo spazio che dedichiamo ai nostri amici alberi, oggi una serie di raccomandazioni su come e dove collocare le conifere nei nostri giardini. Andamento dei mercati, previsioni del tempo per la settimana entrante e il proverbio friulano della settimana chiudono la puntata. Zootecnia bio in Friuli Venezia Giulia, cosa c'è e che cosa ci potrebbe essere? È il titolo dell'approfondimento sulla realtà del biologico che ci fa Cristina Micheloni. Dopo le produzioni vegetali passiamo alle questioni animali e vediamo quanta e quale zootecnia bio c'è in regione. In estremissima sintesi, poca ma spesso eccellente. Ovvero non ci sono centinaia di aziende zootecniche bio a livello professionale, ma qualcosa attorno alle due decine. E diverse di queste arrivano a sistemi di produzione e relativi prodotti, formaggi, uova, carne, davvero eccellenti, il cui alto livello è riconosciuto non solo dal mercato locale, ma anche oltre i confini regionali e nazionali. Sottolineo che mi riferisco ad allevamenti professionali di una certa consistenza, perché accanto a questi c'è anche qualche decina di piccole realtà di zootecnia bio, che spesso complementano le produzioni vegetali, usandone anche gli scarti. Gli avicoli raggiungono delle punte di eccellenza sia nella produzione di uova bio, con un produttore storico che va considerato un pioniere del settore a livello nazionale, e un paio di altre aziende di più recente avvicinamento al bio. Anche in quella della carne di pollo ci sono delle eccellenze, così come nella faraona e tacchino, tutta produzione che va alla vendita diretta. Se invece guardiamo ai bovini, poca di nuovo ma eccellente carne che va sia sul mercato diretto, soprattutto a gruppi d'acquisto o altre forme organizzate che possono garantire il ritiro di tutto un animale, che su quello mediato. Ed un po' di latte, anzi diverse aziende anche di buona dimensione che forniscono le centrali di trasformazione del latte alimentare che poi trovate anche al supermercato e anche di caseificazione. Un paio anche di caseificatori diretti, dove appunto l'eccellenza e la competenza in stalla e in caseificio sono riconosciute dai consumatori nostrani e nazionali. Anche qualche ovicaprino, ma davvero poca cosa, davvero poca. Peccato perché sarebbe la tipologia di allevamento che meglio si adatta alle zone della nostra pedemontana, ma anche della montagna, ed anche al biologico. Probabilmente i prodotti, siano essi formaggi o carne o trasformati a base di carne, non incontrano il gusto di così tanti consumatori come sarebbe necessario, che magari li assaggiano occasionalmente ma non li ritengono un alimento abituale. Suini davvero pochi, una sola realtà professionale, ma con dotazioni e strutture con ampio margine di crescita e sviluppo. Guardando al futuro, le potenzialità ci sono, ma convertire gli allevamenti convenzionali in bio non è affatto semplice, soprattutto per le dimensioni di stalle e della parte esterna, ovvero del paddock e del pascolo, che il regolamento esige e che sono spesso difficili da consentire se la stalla è vicino ad altre abitazioni o proprietà altrui, o semplicemente richiede investimenti importanti per le modifiche. Questo è il fattore critico in molti allevamenti esistenti di bovini da latte. Guardandola dal lato positivo, però, gli allevamenti bio sono uno strumento eccezionale per gestire il territorio e sono l'unica alternativa percorribile se vogliamo continuare a essere onnivori senza mandare a fuoco il pianeta. Infatti, gli allevamenti bio prevedono che i poligastrici mangino soprattutto foraggi, o direttamente al pascolo, o essiccato, insilati, insomma, erba, con tutti i risvolti positivi su biodiversità e stoccaggio di carbonio che ciò comporta. Inoltre, sempre per il regolamento, una buona parte di ciò che gli animali mangiano, siano essi monogastrici o poligastrici, deve provenire dall'azienda stessa o dalla regione e non viaggiare attraverso gli oceani. Anche questo fa una bella differenza per il clima e l'ambiente, ma anche per l'economia locale e le comunità agricole locali. Insomma, se devo proprio fare un sogno zootecnico, sogno che le politiche di sviluppo locale nei prossimi anni vadano solo a incentivare la conversione ad una zootecnia basata sulle risorse locali, sul pascolo e l'uso di foraggi e sottoprodotti alimentari, che sia strumento dello sviluppo montano e non materia di conflitto con i residenti. Produrremo meno latte e carne? Sì, probabile, va bene, ma mangiamone di meno, ma di migliore qualità, e paghiamola al giusto, così anche per gli allevatori sarà possibile vivere del proprio lavoro ed essere fieri dei propri prodotti e della propria professionalità. Gli spazi urbani, soprattutto nei paesi agricoli di una volta, comprendevano caratteristiche oggi scomparse, ma funzionali per la vita della società contadina, e non solo. È il caso dello Sfuei, zona umida a metà strada tra stagno e laghetto. Della loro funzione e importanza ci parla oggi il professor Angelo Floramo nella sua storia. Non è uno stagno, come ce lo immaginiamo noi. Nella lingua friulana ha più il senso di pozza d'acqua permanente, alimentata dalle tante acque sorgive che caratterizzavano la nostra terra di pianura. Quasi in ogni paese ce n'era uno, in alcuni casi anche molti, ed erano considerati un privilegio. Acqua e fango si abbracciavano insieme a costituirne l'anima umida e putrescente, abbondante in autunno, tanto da esondare, quasi secca d'estate, tutta crepature nella mota rappresa. Quelli urbani non sopravvissero alle norme imposte dal governo austriaco a partire dal fatidico 1797, e per buona parte del primo trentennio dell'Ottocento si operarono tante piccole bonifiche territoriali su istanza delle amministrazioni cittadine, spesso incontrando resistenza nella popolazione. I documenti di archivio raccontano che si trattava di zone umide di una certa estensione. A San Daniele ve n'era una posizionata proprio nel centro storico della cittadina, tra le antiche mura di cinta di origine medievale e la chiesa di Santa Maria della Fratta. Era considerata particolarmente utile ai beveraggi del bestiame, ma rappresentava anche una preziosa risorsa d'acqua, come citano ripetutamente le fonti. In caso di incendio, occorrenza tutt'altro che remota in un contesto cittadino in cui legno, paglia e strame continuavano ad essere materiali fondamentali per l'edilizia civile. Ma questa pozza era anche fonte di miasmi puzzolenti e pericoloso focolaio di febbri malariche, che spesso si esplicitavano in vere e proprie epidemie. Nel caso di San Daniele, la sanificazione del sito si rese necessaria per le reiterate lamentele dei carcerati. Le prigioni sorgevano proprio nelle sue pertinenze, che accusavano l'insalubrità del luogo. Eppure lo Sfuei rappresentò per secoli una risorsa importantissima. Di fatto era uno spazio selvatico rimasto imprigionato tra le case, e come tale veniva percepito in tutta la sua straordinaria ambiguità da chi ci viveva accanto. Una tana di rane e di serpi. Da ottobre a novembre vi trovavano ricetto i Masurins, i Germani reali, che nei loro lunghi sorvoli europei, intenti a bordeggiare i rigori degli inverni, attraversavano spesso in queste pozze, atterrando, mescolandosi a quelli ormai divenuti stanziali. Rappresentavano un'occasione ghiotta per una passata in padella capace di regalare l'eccezionalità della festa. Sfueai è anche un verbo della lingua friulana pressoché intraducibile. È l'effetto che regala alla vista un barbaglio di luce sull'increspatura dell'acqua. Speravamo che fosse sotto controllo, invece nelle ultime settimane si sono moltiplicate le segnalazioni di vigneti colpiti da flavescenza dorata della vite. Ne parliamo con Marco Malison, responsabile tecnico-economico di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia. La malattia è stata individuata per la prima volta in Friuli Venezia Giulia nel 1996 su vigneti al confine con il Veneto, e da qui si è progressivamente diffusa verso est nonostante le misure di lotta obbligatorie disposte sull'intera regione. L'anomalo andamento stagionale di quest'anno avrà forse contribuito a far sviluppare i sintomi in piante già infette precedentemente asintomatiche. Fatto sta che l'epidemia ha assunto dimensioni preoccupanti anche in territori che sembravano indenni o comunque con presenza di focolai isolati. Ricordiamo brevemente di cosa si tratta. La malattia è causata da microorganismi simili a batteri che si sviluppano all'interno del sistema linfatico della pianta e proprio per questo non è curabile. I sintomi sono specifici e possono essere facilmente confusi con altre patologie, oltre al fatto che diversi vitigni possono essere più o meno sensibili. può rimanere latente per anni e poi svilupparsi con semplici giallumi o accartocciamenti fogliari, disseccamenti fino alle morte delle piante. Viene diffusa tramite le punture di una cicalina chiamata Scaphoideus titanus, molto comune nei nostri vigneti. In cosa consiste la lota obbligatoria? C'è un decreto ministeriale del 31 maggio 2000 che fornisce le linee guida ai servizi fitosanitari regionali, nel nostro caso ERSA, che poi emanano disposizioni specifiche. Tra queste c'è la lotta obbligatoria all'insetto vettore con almeno un trattamento insetticida all'anno, posizionato secondo i bollettini di difesa integrata puntualmente diffusi dall'ente, ma nel programma regionale per la lotta alla flavescenza dorata, recentemente aggiornato con decreto 391 del 1 giugno 2022, è previsto anche l'obbligo di estirpo di ogni pianta sintomatica, ovvero dell'intero vigneto quando le piante sintomatiche superano il 20%. Inoltre, per eliminare eventuali fonti di inoculo e la moltiplicazione della cicalina vettore, è stato introdotto anche l'obbligo di estirpo di tutti i vigneti abbandonati da oltre un anno. Attenzione, perché chi non applica le misure di lotta obbligatoria rischia una segnalazione all'autorità giudiziaria, oltre all'applicazione di pesanti sanzioni amministrative che vanno da 500 a 6.000 euro a seconda dei casi. Il professor Raffaele Testolin conclude la sua rassegna sulle piante da frutto con la Melanchier, che regala delle bacche dall'impiego versatilissimo e soprattutto allevabili anche in quota. La Melanchier è una melina che assomiglia ad un mirtillo per le dimensioni dei frutti, ma non lasciatevi sviare dalle apparenze. È una pianta dalle mille risorse. I frutti, che ricordano un po' l'uva spina, si mangiano freschi mano a mano che maturano. Si possono usare per confetture da affiancare alle carni, si può fare delle composte per le colazioni del mattino, si può fare succhi, si può essiccare come l'uva passa. Ancora, si può distillare i frutti una volta fermentati. Si può aromatizzare le grappe o fare un vermouth originalissimo aggiungendo del buon vino ai frutti fatti macerare nell'alcol o nella grappa in una versione tutta friulana. Zucchero a piacimento a seconda che si voglia un liquore più o meno dolce. Se aggiungo che la pianta cresce da sola, non ha bisogno di cure e si trova bene anche a 1000 metri di altitudine ed oltre, sono sicuro di aver attirato l'attenzione di molti di voi. E non è finita. È un cespuglio che cresce lentamente, ma può raggiungere alcuni metri di altezza e diventare anche un piccolo albero. In primavera sembra un albero di neve coperto di numerosi grappolini di fiori bianchi. Le foglie sono di un bel verde, i frutti maturano da luglio in poi a seconda dell'altitudine. La maturazione è scalare e i frutti possono essere raccolti per qualche settimana. A fine stagione la pianta, con un ultimo gesto di amore, ci regala un trionfo di colore, dato che le foglie, prima di cadere, assumono una colorazione giallo-aranciato spettacolare. Da noi è spontaneo la Melanchier ovalis, a volte chiamato anche pero corvino. Purtroppo il frutto non è particolarmente interessante e se volete avere frutti di buona qualità dovete acquistare dal vivaista la Melanchier canadensis, originario del Canada, come dice la parola, ma ormai diffuso anche da noi, tanto che in alcune zone alpine si trova inselvatichito. Pensate vi abbia detto tutto di questa pianta? No. Il fiore è molto apprezzato dalle api e se un ascoltatore volesse fare una pazzia e coltivare un piccolo frutteto di Melanchier, potrebbe fare anche un miele unico, dato che finora, essendo la Melanchier poco diffuso, nessuno è mai riuscito a fare un miele monovarietale con il nettare di questa specie, nemmeno l'amico Moreno Greatti. Per la rubrica delle api, oggi Moreno Greatti ci parla del loro rapporto con l'agricoltura, che non è sempre un rapporto di danno, ma per certi versi può arrivare anche in loro aiuto. Il rapporto che intercorre tra le api e diverse colture agrarie, dove questi preziosi insetti garantiscono l'impollinazione e la conseguente produzione, è un fatto ben noto. Tuttavia è possibile un altro legame tra mondo agricolo e apicoltura, il cui scopo è quello di aiutare le api a sopravvivere in momenti di scarso raccolto e nel contempo creare dei vantaggi all'agricoltore. Questa sinergia tra agricoltore e apicoltore può essere data dalla semina delle cosiddette colture di copertura, che potremmo definire come una via di mezzo tra i sovesci, che hanno finalità agronomiche, e le colture intercalari, che hanno finalità economiche. A tutt'oggi la coltivazione di colture di copertura, o comunque di colture che fungano da pascoli per le api, è pratica poco comune, nonostante queste possano fornire un notevole contributo alla sopravvivenza degli alveari, in quanto molte sono caratterizzate da una notevole ricchezza di nettare particolarmente ricercato dalle api. Per un agricoltore, i vantaggi che derivano dalla semina delle colture di copertura possono essere sia agronomici, e fra questi si possono ricordare la riduzione dell'erosione, il miglioramento delle proprietà fisiche del terreno, la riduzione della perdita per l'iscivazione di elementi nutritivi e l'apporto di sostanza organica, sia di carattere economico, con produzioni supplementari, erbai ad esempio. Come colture di copertura si possono utilizzare o specie microterme nel periodo invernale, in attesa della semina di una coltura a ciclo estivo, o macroterme nel periodo estivo, in attesa della semina di una coltura a ciclo invernale. È ovvio che le piante, affinché le api trovino giovimento, devono andare in fiore. Tra le diverse specie utilizzabili come colture di copertura e apprezzate dalle api si possono ricordare le leguminose, che tra l'altro arricchiscono il terreno di azoto, quali i trifogli, l'erba medica, la veccia vellutata, il melilotto, la favetta, la lupinella. Molto utili alle api potrebbero risultare anche alcune colture da reddito, come il grano saraceno e il coriandolo. Infine va citata la facelia, una vera e propria pianta da miele, molto coltivata proprio per questo scopo in altri paesi europei. La facelia è una fioritura programmabile, in quanto i fiori compaiono dopo circa 2 mesi dalla semina e la resa in miele in condizioni ottimali e con superfici sufficientemente estese è molto allevata. Pertanto gli apicoltori potrebbero prendere contatto con gli agricoltori onde arrivare ad accordi vantaggiosi per entrambi, oppure esercitare opportune pressioni nelle giuste sedi, facendo leva sulle crescenti difficoltà che si incontrano a mantenere in vita le api. Per la rubrica Amici Alberi oggi parliamo di conifere con Giorgio Valvason, che ci conduce questa rubrica assieme a Roberto Barocchi e Aldo Cavani. Conifere che hanno avuto grandi fortune nella seconda metà del Novecento, che adesso perlomeno in pianura sono un pochettino abbandonate e hanno delle esigenze specifiche. Quali? In genere le conifere hanno bisogno di terreni un po' diversi dei nostri. I nostri terreni sono calcarei, per le conifere non è che vadano bene, hanno bisogno di terreni tendenzialmente acidi. Poi il nostro ambiente, dobbiamo dire, è un ambiente spoglio durante il periodo invernale e non è che si accostino molto bene in questo nostro ambiente, diciamo. In effetti nei giardini si piantava la magnolia nel Settecento, il tasso, perché erano definite piante nobili, e che gradualmente, oggi come oggi, vediamo come i pinus pini non stanno bene, ma anche di salute, possiamo dire, perché parlando del pinus pini, ad esempio, noi sappiamo benissimo che nel nostro ambiente il pino riceve un'ora di luce in meno rispetto ai luoghi del sud Italia e ai loro luoghi d'origine, e pertanto non è che vivano bene. Io vedo che i rami sottostanti, è vero, si piegano in continuazione e la pianta si svilisce perché sta perdendo gradualmente la chioma, anche al fatto che ricevono poca luce. È un buon consiglio quello di piantarle a nord, le conifere? Andrebbero, diciamo, collocate nella zona sud del giardino, appunto per questione di luminosità nel periodo invernale, naturalmente. Chi, sì, oltre a fare un'opera meritoria perché fa continuare la vita di una conifera, pianta nel suo giardino l'albero di Natale? Che dire? L'albero di Natale va collocato nel posto giusto, il che vuol dire che ha bisogno del suo spazio. È una pianta che si alza parecchio, sui 20-25 metri, abbondante, e ha bisogno di luce, anche di molta luce, perché tende a perdere gli aghi e diventa senescente, diciamo, da noi nell'arco di 20, 30, 40 anni. E pertanto è una pianta che io non consiglierei di piantare. Parlando poi degli abeti, gli abeti stanno soffrendo moltissimo da noi in questo periodo, perché con questo cambiamento climatico basta andare su nella zona di Tolmezzo, vediamo che sul bosco noi vediamo gli abeti che stanno morendo. Sono piante che sono state portate, non tantissimo tempo fa, un paio di secoli credo, e adesso sono molto in sofferenza. E con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia. Mercato poco attivo, con prezzi stazionari venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole dei campi di commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato fra 32,50 e 32,80 euro il quintale IVA esclusa, il frumento tra 32,90 e 33,40, l'orzo peso specifico 62,65 tra 28,70 e 29,20. Rispetto ad un anno fa il mais è aumentato di 8,10 euro e il frumento di 13 il quintale. Buone contrattazioni all'ortofrutticolo di Udine con prezzi diversificati. L'insalata gentile viene quotata tra 1,70 e 1,80 euro il chilo IVA esclusa. La lattuga Trocadero tra 1,50 e 1,60. Le zucchine tra 0,80 e 1 euro. Le melanzane tonde tra 0,90 e 1,30. I peperoni gialli e rossi italiani tra 1,90 e 2 euro. La scalora riccia tra 3,320, radicchio rosso tondo e quello di Treviso tra 2,50 e 2,70, le patate novelle tra 0,65 e 0,75, le nettarine da 1,20 a 2,90, le pesche italiane, le albicocche da 1,50 a 2,50, i meloni tra 1,40 e 2 euro e le angurie da 0,60 a 1,10. Migliora anche il prezzo del latte crudo di vacca di origine Friuli Venezia Giulia, quotato francostalla tra 48 e 50 centesimi il litro più premi qualità IVA. Con il previsore dell'ARPA Livio Stefanutto diamo uno sguardo al tempo che farà nella settimana entrante. Un promontorio anticiclonico sull'Europa occidentale e una depressione sui paesi baltici fanno fluire sulla regione correnti settentrionali, secche e meno calde dei giorni scorsi. Stasera aggiungerà aria un po' più fresca in quota, che potrebbe innescare della locale instabilità. Poi affluirà progressivamente aria più mite e stabile. Domani avremo cielo in genere sereno al mattino, con borino sulla costa, poco nuvoloso e venti a regime di brezza nel pomeriggio, mentre sui monti sarà possibile maggiore nuvolosità. Le temperature in pianura andranno dai 15 gradi di notte ai 30 gradi di giorno. Martedì sereno o poco nuvoloso per qualche velatura in quota, venti a regime di brezza e zero termico a 3.400 metri circa. Mercoledì il cielo sarà da sereno a poco nuvoloso per nubi pomeridiane in montagna ed il passaggio di qualche velatura. I venti saranno a regime di brezza, farà più caldo in quota, con zero termico in risalita fino a oltre 4.000 metri. Nella seconda parte della settimana continuerà a dominare l'anticiclone, ma affluirà progressivamente aria più calda sia nei bassi strati che in quota. Le temperature massime in pianura saliranno fino a 37-38 gradi nel prossimo fine settimana. Sulla costa i venti di brezza tenderanno a mitigare la calura di giorno, ma si sentirà di più l'afa di sera e di notte. In montagna lo zero termico salirà fino a oltre 4.500 metri. Le eventuali piogge temporali saranno più probabili venerdì in montagna, mentre per quanto riguarda la pianura il tempo sarà prevalentemente asciutto e caldo. Come sempre, vi consigliamo di seguire gli aggiornamenti che verranno emessi nei prossimi giorni. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano legato al tempo e ai santi. Se il gial al chiante dopo misdì, il bon temp all'è par finì, ovvero se il gallo canta nel pomeriggio, il bel tempo sta per finire. Coordinamento tecnico di Daniel Aposto, il nostro indirizzo mail vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino, Lillo Montalto Monella e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.